Tempo di sport con Carlo Genta. Riconosciuta questa colonna sonora di un famoso film degli anni 70, si intitolava Milano odia, la polizia non può sparare. Cosa c'entra? Direte nulla, non c'entra nulla, ma è un bel effetto sonoro per parlare della Milano del calcio, saccheggiata dagli stranieri come le sue boutique. Milano spogliata, Milano terra di conquista. Leonardo che preferisce una poltrona sui Campi Elisi ad una delle panchine più importanti, o almeno così crediamo o credevamo, del Parco del Calcio. E Thiago Silva che sposa il Milan e poi flirta con il Barcellona. Cosa ne pensate? 800240024, storielle o storiacce che siano, per usare una formula cara a Radio 24 e adagio di un programma di successo, storiello, storiacce che siano, sono storie di questi giorni. Gianluca Di Marzio da Sky, buongiorno Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Grazie a te per la compagnia. Cosa c'è sotto questa storia di Leonardo? Perché va via? Come ha detto, ha confessato mezz'ora fa, l'avete sentito anche nel giornale radio, Moratti. Sì, intanto è un po' strano questo balletto di smentite e conferme nel giro di sole 24 ore, sì. Però insomma, ogni tanto i giornalisti evidentemente ci prendono, e questa è la dimostrazione che spesso le smentite ufficiali dei vari protagonisti poi non corrispondano a quello che in realtà sta accadendo. Succede che Leonardo ha avuto un'offerta importante dal livello economico, perché dalle indiscrezioni che abbiamo noi si parla di un contratto pluriennale e anche molto ricco, di 5 milioni a stagione, ma al di là dell'aspetto economico, che credo per uno come Leonardo conti relativamente, visto che deve aver guadagnato molto e anche bene nella sua carriera, qui c'ha proprio chiavi in mano la società, cioè lui avrà la responsabilità di tutto, potrà decidere campagne acquisti, a livello manageriale, marketing, merchandise, tutto, qualsiasi cosa di questo nuovo Paris Saint-Germain. Quindi evidentemente è un progetto che lo ha affascinato, lo ha tentato. Non ha ancora comunicato ufficialmente all'Inter la sua decisione di andare, ma mi sembra che i segnali siano quelli, e quindi l'Inter in maniera cautelativa ha fatto questa telefonata a Bielsa, mi risulta l'abbia fatta Branca, sì. e non Moratti. Bielsa ha dato la sua disponibilità, il suggerimento è stato di Zanetti, che è un fedelissimo dell'ex CT dell'Argentina e del Cile, e quindi mi sembra che insomma la strada sia quella. Poi se ci sarà nel mercato, siamo abituati anche a clamorosi colpi di scena e retromarce improvvise, quindi sicuro. Se poi Leonardo ci ripenserà in Brasile passeggiando per Ipanema e penserà di star sbagliando, magari ricambierà idea, però sinceramente in questo momento i segnali sono quelli che vada. Sì, può aver contato il fatto che Leonardo si è lasciato non benissimo, non in eccellenti rapporti con alcuni big, con alcune superstar dell'Inter? Secondo me sì, anche forse dei dubbi che gli erano cominciati a venire sul suo profilo da allenatore, perché poi tante volte ne aveva parlato anche con Moratti, e se veramente voleva fare solo l'allenatore, nel momento in cui il Paris Saint-Germain l'ha contattato avrebbe detto sì, io vengo, ma vengo a fare allenatore. Invece non c'è stata questa condizione, quindi evidentemente lo stesso Leonardo non era e non è convinto che la panchina sia il suo habitat naturale. Gianluca, per chiudere, poi ti lascio, sì. Thiago Silva e il Barcellona, questo flirt dopo il matrimonio fino al 2016 con il Milan, una scappatella o qualcosa di vero? Tante volte si flirta, sì, però poi dopo si torna con la moglie, quindi credo che Thiago Silva rimarrà. Credo che il Milan stia pensando invece a qualcosina di interessante. Oggi, anzi ieri sera a cena, Preziosi e Galliani hanno fatto una trattativa per Merkel, giovane centrocampista che l'anno scorso Allegri ha fatto anche debuttare in prima squadra, che andrà al Genoa, e può esserci una sorpresina in questa trattativa. Tra poco ne parlerò su Sky, quindi se avete hai il video davanti, sì. Ascoltami tra poco e vi darò questa anticipazione, che comunque riguarda un giocatore molto interessante del campionato di Serie B che si chiama El Shaarawy. Ti faccio sentire attraverso la TV. Va bene. Grazie. A tra poco, allora, tra poco sono in diretta. Ciao, ciao. Grazie a Gianluca Di Marzio. Dunque Milano in vendita. sì, perché ci sono anche delle stranezze, come diceva correttamente Gianluca Di Marzio in queste ultime 24 ore dell'Inter. Ad esempio, ci sono delle dichiarazioni che sono di questa mattina dell'amministratore delegato Paolillo, che entrando in Lega Calcio, dove c'è una riunione informale, tra poco proveremo anche a capire magari cosa si diranno i signori del calcio in via informale, appunto, in Lega. Paolillo diceva queste cose. Non lo smentisce? No. Se non lo smentisce, assolutamente che... niente. Non... Ma queste sono illazioni vostre. Avete sentito Bielsa? Ma sono illazioni vostre, ma non c'è neanche bisogno di smentirle. Infatti Moratti poi ha detto, ripeto, credo ci sia stato un primo contatto con Bielsa, anche se non mio. Ha fatto l'allenatore, Leonardo ha fatto l'allenatore con tanta buona volontà e passione, ma non è certo la sua aspirazione per il futuro. Conviene che segua la sua aspirazione e che noi cerchiamo un nuovo allenatore. Queste le parole di Moratti, e quindi non sono illazioni ma parole del presidente dell'Inter. Mi ha raggiunto intanto l'amico e collega Marco Bellinazzo dal Sole 24 Ore, che ha dei problemi con le cuffie. Adesso le sistemiamo. Ciao Marco. Risolveremo tutto, buongiorno. Buongiorno a te. Scelto una giornata interessante, anziché no, per... Beh, ma il calcio in questi giorni, in queste settimane, ce ne offre di interessi sotto tutti i punti di vista. Sì, poi parliamo anche di... Mi dirai cosa si stanno dicendo lor signori in via informale, per l'appunto, in Lega, e poi vorrei approfondire con te anche altri discorsi, come ad esempio questo fair play finanziario che l'Inter segue con uno scrupolo totale, perfino sospetto, se me lo consenti, a dispetto di grandi cifre che invece girano in tutto il resto del mondo del calcio, vere, reali, presunte, dalla Juventus alle inglesi, alle spagnole, al Barcellona, che con una mano prende Giuseppe Rossi e con l'altra accarezza Thiago Silva, perché mi sembra questo, anche questo flirt, questa scappatella, questa sorta di relazione extraconiugale di Thiago Silva, mi sembra divertente. Tutto molto divertente. Il fair play finanziario non significa che non si possa più spendere, che devi spendere quello che guadagni. Sì, e l'Inter però cosa aspetta? Di vendere un giocatore per usare quei soldi? Non è prigioniera del colossale affare fatto due stagioni fa con Ibrahimovic e Eto'o. Probabilmente un po' prigioniero di quello, ma soprattutto sì. L'Inter ha la metà del fatturato del Barcellona, c'è questo piccolo particolare che a volte sfugge, così come la metà del fatturato del Real Madrid, del Manchester United e tra poco di molte altre squadre, ma lo stesso vale per il Milan, per la Juve e per altre realtà del calcio italiano. Noi dobbiamo renderci conto che stiamo diventando sempre di più periferia. Anche le scelte di Leonardo non sono fatte così tanto per fare. Il calcio francese avrà poi nei prossimi anni uno sviluppo enorme, e poi vedremo dopo magari come e perché questo sviluppo si sta preparando. Leonardo va dove soffia il vento. Certo. Traffico, poi Graziano e Giorgio, entrambi da Milano, primo ascoltatore di oggi. Un sogno, nel senso di cosa poteva stimolarmi tanto. Cercavo il grande stimolo, cercavo una grande sfida. E più grande di questa credo che non ci sia. Ho sempre cercato di essere libero. Io cerco la mia identità, il mio modo di fare. Queste le parole di Leonardo nel suo primo giorno da interista. Cercavo la mia identità, evidentemente non l'ha trovata in panchina o sulla panchina dell'Inter, e quel grande stimolo, il più grande di tutti, forse non era quello assoluto. Graziano da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare in merito sempre dell'affair Ronaldo, Leonardo, sì. Ma PSG. Sì. Cioè, io credo che si sia dimostrato, poco serio nei confronti della società Inter. Io sono interista. Perché se lui non si sentiva inadeguato per una panchina di un certo livello, dopo le batoste con lo Schalke e il Milan, la domenica della finale di Coppa Italia poteva dire a Moratti si cerchi un nuovo allenatore, perché non mi sento in grado. Sì, ma Graziano ha fatto evidentemente depositare la polvere dopo quella vittoria, che è stata la sua prima e unica da allenatore, e ha capito, vuoi per la prospettiva nuova che gli si è presentata, vuoi per i tanti quattrini che il Paris Saint-Germain, si parla, avete sentito, di uno sproposito, 5 milioni di euro l'anno per andare a fare plenipotenziario di questo club, che pochissimo ha vinto, sono moltissimi anni che non vince, ma c'è una nuova proprietà, ci sono tanti denari, c'è un calcio francese che, come ci spiegava e ci spiegherà Marco Bellinazzo, qui presente adesso alle 24 ore, è probabilmente la nuova frontiera, no? Complici gli europei del 2016, probabilmente tutte queste cose. O forse Leonardo ha detto non riesco, non è il mio mestiere fare allenatore, vado da un'altra parte. Giorgio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Due cose velocissime. Io sono interista e vedendo un po' la situazione Inter dall'esterno, forse il Leonardo accetterei la proposta del Paris Saint-Germain, ma neanche pensandoci mezzo secondo. Sì. La cosa che mi lascia un po' preoccupato, se sono vere le indiscrezioni che sono uscite, che dopo questa, diciamo, indiscrezione di Leonardo, Moratti abbia chiamato i giocatori senatori per farsi consigliare un allenatore, ecco, questa cosa purtroppo si ripete, purtroppo non è una cosa che fa bene. Non è una cosa sorprendente ed è assolutamente plausibile, perché un contatto tra Moratti e Zanetti lo vedrei come scontato. Serve però una lezione di italiano, anche per usare bene gli aggettivi, da professor Michele Serra. Buon pomeriggio Michele, grazie. Grazie per il professore, non so se sono all'altezza. No, ma parlando con amici interisti nelle ultime ore o negli ultimi minuti, come Matteo Caccia, mio collega qui, che tra poco sentirete, in ben altra veste, ebbene, l'aggettivo più corretto mi pare sconsolati. Ma dovremmo essere abituati invece a un altro aggettivo noi, nerazzurri, che è sconcertati. Lo so, tutto sembra sempre abbastanza precario. Peraltro, mentre fino a qualche anno fa questo sconcerto si sposava con una situazione, con una bacheca insomma molto molto vuota, adesso diciamo che è uno sconcerto a pancia piena, e quindi non c'è spazio per eccessiva disperazione, mi sembra, no? Sì. Certo, insomma, è buffo. Ecco, buffo è un altro aggettivo. Buffo è un altro aggettivo. È buffo perché appena uno crede di avere un po' di solidità e di certezze, anche persino certezze affettive, beh, c'è sempre qualcosa che succede che è abbastanza imprevedibile, insomma. Sì, qualche rigurgito da vecchia Inter, insomma, qualche incertezza da vecchia Inter, forse. Sì, diciamo, parafrasando Bauman, che è un grande sociologo, che ha detto che viviamo in una società liquida, ecco, anche l'Inter è una società liquida. Cioè, praticamente è molto difficile che si riescano a stratificare delle certezze, delle consuetudini. Sì. Mi sembra che l'unico elemento di continuità sia Marco Branca, a meno che tra qualche minuto ci dicano che va anche Branca è in uscita. D'altra parte, Paris, società liquida non solo perché si fonda sul petrolio, no? Non solo, no, sì, beh, certo, liquida in moltissimi sensi. Cioè, mi sei rendo sicuro? Conto che è stato un involontario gioco di parole, liquida nel senso che poi ha molta liquidità, poi si fonda sul petrolio, ma liquida anche perché sembra spesso una società non molto strutturata, insomma, forse questo fa parte di una specie di ambizione democratica anche di Moratti, no? Sì. Che consulta i giocatori, forse consulta anche qualche familiare, non so, cioè, sì. Sicuramente, diciamo, non è un condottiero autoritario, ecco, questo no, è un signore che è stato molto generoso con la squadra, questo è riconosciuto, che ultimamente poi ha vinto parecchio, anche se Capello dice, rendendosi molto simpatico a tutti gli interisti, ha detto che lo scudetto del Milan di quest'anno è il primo vero scudetto dopo Calciopoli, quindi vuol dire che i cinque scudetti precedenti, vabbè. Ecco, quindi niente, siamo un po' abituati, diciamo, a questa fluidità, no? a questo vivere un po' la giornata, vedendo quello che succede. Abbiamo avuto Benitez, abbiamo avuto Leonardo, ci siamo affezionati a Leonardo, io mi ero affezionato addirittura anche a Benitez, perché aveva quest'aria da affettatore di salumi diversissimo da Mourinho. Sì. Mi era simpatico, se n'è andato, adesso se ne va anche Leonardo, Parigi sempre Parigi, eccetera eccetera. Sì, Parigi val bene una messa, insomma, è anche 5 milioni di euro l'anno per andare a dirigere quel club. Invece Michele, io volevo chiederti un'altra cosa che nulla c'entra con l'Inter. L'altro giorno hai scritto, e ho ampiamente citato, di questa forma di malattia che si chiama gioco d'azzardo, al quale gli sportivi sono particolarmente esposti. Vuoi perché abituati al denaro facile, vuoi per la voglia di sentirsi ancora vivi, per l'adrenalina, per tutte queste ragioni che possiamo immaginare, intuire o qualche volta anche toccare, insomma. Volevo chiederti la tua sensazione sulle sensazioni dei magistrati cremonesi. Ma è difficile capire, anche perché insomma siamo tutti quanti vittime, nel mio caso anche nel tuo caso, anche artefici della società mediatica, quindi diciamo, siamo contemporaneamente fonte di informazione e esposti alle informazioni. Sicuramente i toni urlati dei primi minuti, dei primi giorni dello scandalo non hanno aiutato a farsi un'idea, diciamo, dal punto sotto il profilo penale o della giustizia sportiva molto molto concreta. Ecco, non si capisce bene, cioè c'è stato a un certo punto uno svolazzare di nomi incredibili, pareva che potesse essere tirato in ballo anche Maradona, risalendo a Meazza, Piola, un po' a casaccio, diciamo così. Ecco, quindi c'è stato un fracasso mediatico che non ha aiutato a farsi un'idea concreta. Tra l'altro il giudice Salvini era un mio compagno di scuola, quindi posso spendere a ragion veduta una buona parola su di lui. È persona molto seria e credo che saprà distinguere le cose solide dalle cose volatili. Sì. Mi sembra comunque che l'elemento, indipendentemente dagli aspetti penali, l'elemento di costume che mi colpisce molto è effettivamente quanta gente sia dipendente dal gioco. Cioè il gioco è veramente una droga, è una dipendenza diffusissima. Poi si parla ovviamente di Beppe Signore, del buon Paoloni, di queste persone, ma insomma ci sono davvero i pensionati che si sputtanano la pensione davanti ai Gratta e Vinci. Cioè è un problema molto sommerso, se ne parla molto poco, ma è un problema grosso, e mi rendo conto poi che insomma riguarda anche la libertà delle persone, cioè non è che tu puoi impedire a uno di buttare via dei quattrini o comunque di avere i vizi che crede, che può o non può permettersi. Però il problema è grosso, secondo me, è proprio grosso. Credo che l'elemento forte venuto fuori da questo scandalo è proprio questo, cioè quante persone sono preda di un ingranaggio psicologico perverso, perverso e rovinoso, insomma, che poi nel caso del calcio ovviamente ha implicazioni ugualmente gravi, perché oltre a dilapidare i loro quattrini, appunto, poi influenzano l'onestà dello sport, insomma, la pulizia del risultato. Certo. Le regole, e questo è certamente molto grave. Io diciamo credo che non so come funzionerà la giustizia sportiva, con quanta sollecitudine, con quanta correttezza e con quanta precisione. Certamente la giustizia penale mi sembra che si sia mossa con efficacia e tempestività. Con tempestività, senza farsi influenzare troppo dai titoli di giornale. Ecco. Michele, io ti ringrazio, è sempre un piacere. Grazie a voi, tutti a Parigi allora. Tutti a Parigi a vedere che combina Leonardo. Grazie a Michele, grazie a Michele Serra. Francesco da Taranto, Mattia da Mantova in linea in questo momento. Marco Bellinazzo, spiegami perché Parigi? Beh, perché il Paris Saint-Germain è stato acquistato da un fondo del Qatar al 70%, il 30% è rimasto invece a un fondo degli Stati Uniti che possedeva le quote. Pare che sia stato già staccato un assegno da 150 milioni per finanziare il potenziamento della squadra. Adesso sistemiamo quel microfono però, Marco, perché sento, se non so se esce così dalla radio, però un fastidiosissimo rumore. Ora proviamo a sistemare quel microfono nella pausa che ci attende. Marco da Roma, Francesco da Taranto, Mattia da Mantova in linea, state lì, non vi muovete. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire, messaggi 349 238 6666, e c'è chi riprova magari a rimandare un messaggio simile a quello di ieri o dei giorni scorsi. I messaggi sono tantissimi, è meglio parlare di persona. Comunque lo leggo questo messaggio. Egregio signor Genta, l'altro ieri si chiedeva il nesso tra Calciopoli e Scommessopoli. Ovviamente nessuno, ma sicuramente è stata oscurata la storia dei quattro balordi. Dalla storia dei quattro balordi, la difesa dei legali di Moggi con relative intercettazioni di Meani e Facchetti. Le ho lette sul sito della Gazzetta ormai 10 giorni fa, ma nessuno ne ha parlato, voi compresi. Giorgio Da Lucca, SMS censurato ieri, oggi modificato. Assolutamente non è questione di censura, semplicemente questione di confusione magari negli SMS. Li leggo tutti, non li rendo tutti pubblici, ma non è questo il senso del discorso. Questa storia può aver oscurato la difesa dei legali di Moggi, non oscurerà invece le parole dei giudici che si pronunceranno dopo la difesa dei legali di Moggi, e quelle mi sembrano un po' più importanti nel complesso. Sono sempre con Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. E vai, si torna ai vecchi tempi, scrive Marco. Che fortuna, noi interisti, la noia non la conosciamo, la stabilità è una chimera. Oppure Paolo da Perugia, smettetela di fare tante seghe per nulla, è la fortuna dell'Inter. Questo è il tenore di alcuni messaggi. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, io appunto chiamavo per l'Inter. Sì. Avrei tenuto Leonardo perché comunque è l'allenatore che gli andava dato un altro anno, poi è andato lui, ecco. Ma la domanda è questa, siamo proprio convinti che era l'allenatore giusto per vincere lo scudetto? Mi sembrava sempre, metteva in campo formazioni molto offensive, la formazione del derby col Milan, del derby di ritorno, mi sembrava quella di Cooper quando mise Coppa, Vieri e Ronaldo insieme il 5 maggio e poi sappiamo quando va a finire, sì. Che ne pensate? Insomma, Leonardo stava studiando da grande allenatore, probabilmente non lo era e magari non lo sarà mai, perché può aver capito che non era questa la sua principale aspirazione, non era questo ciò che voleva dalla sua identità, per tornare sulle sue parole il giorno della presentazione. Non so, a me sorprende abbastanza il fatto che un uomo di carisma intelligente che, non dimentichiamo, l'aveva dato all'Inter quel feeling positivo, quella filosofia della pace, amore e gol appena arrivato, poi si lascia sia col Milan, sia con quelli del Milan, sia con le superstar dell'Inter, non in buoni rapporti. Questo lo trovo abbastanza strano e curioso, non trovi, Marco? Beh, lui lo ha detto in quell'intervista che abbiamo sentito. Lui è un uomo libero che cerca la sua strada e cerca di realizzarsi. Io vorrei essere Leonardo, soprattutto se mi dessero 5 milioni per trovare la mia identità. Sarebbe una bella cosa, insomma. Sarebbe una bella cosa. Senti, ma questa storia del calcio francese, sì, se mi fate parlare, mi state impedendo di parlare. Guarda, che mi hanno già contattato da un'altra radio, c'è già un'offerta. Parlerete col mio procuratore. Sembri Thiago Silva. Ne parlavamo prima, appunto. No, il discorso che concludo rapidamente sul calcio francese è questo: il Paris Saint-Germain è ora in mano a un fondo arabo, così come un altro fondo arabo, per esempio, ha acquistato il Malaga, e teniamo d'occhio in Spagna anche il Malaga. Sono squadre che arriveranno con bei soldi sul mercato, cercheranno di primeggiare in Europa. Il calcio francese in questo momento è la Cenerentola in Europa, sì. Ha un fatturato complessivo di 1 miliardo contro 1,5 miliardi di Serie A, Liga, Premier e addirittura poi la Premier fa 2,5 miliardi, insomma Bundesliga, Liga Spagnola e Serie A sono su 1,5 miliardi, ripeto, Ligue 1 al momento è 1 miliardo, però è una situazione simile a quella italiana, cioè dipende dai diritti TV e soltanto il 10-15% è incassato dagli stadi, ma a differenza dell'Italia gli stadi in Francia li stanno facendo e sì. Guarda caso perché ci hanno battuto nella competizione per accaparrarsi gli europei del 2016, forse grazie a Michel Platini, chissà. In ogni caso gli stadi nuovi li stanno facendo e quindi è molto probabile che da qui al 2016 gli incassi da stadi in Francia aumenteranno quindi i campioni che potranno giocare nel massimo campionato francese, l'appeal di questo campionato anche per i paesi francofoni sparsi nel mondo aumenterà e prevedo, insomma, che da qui a qualche anno rapidamente la Serie A si appresterà invece ad acquisire questo titolo bruttissimo di Cenerentola in Europa, se non si farà nulla per evitare questa fine. Sì, Francia in corsia di sorpasso. Francia in corsia di sorpasso dopo la Germania, dopo la Germania. Ci ha fatto la riga. Nessuno l'avrebbe pensato, per dirla come l'avrebbe pensato. E per i prossimi 5 anni avrà un posto in Champions in luogo dell'Italia. Calcoliamo 20 milioni ad anno, perché tanto vale quel posto in Champions, almeno per 5 anni, dato le graduatorie del ranking 5x2 UEFA, 100. Circa 100 milioni in un calcio che fattura 1,5 comincia a essere una bella cifra. Dunque, Francesco da Taranto, Mattia da Mantova, Bruno da Pavia, 800240024, il numero verde. Volevo leggervi, prima di parlare con gli ascoltatori, Alberto Costa, tema che poi girerò a Marco Beninazzo su Corriere della Sera di oggi, scrivendo un fondo, se la parola, i contratti non contano su Leonardo, Thiago Silva, eccetera. Tra le altre cose scrive Costa: sembra un paradosso, ma il fair play finanziario prossimo venturo dilaterà la forbice già esistente tra noi e gli spagnoli. Real e Barcellona spremono come limoni gli stadi di proprietà e si nutrono dei proventi dei diritti televisivi che non sono chiamati a spartire con alcuno. In Italia, per contro, ci si azzanna sul concetto di tifoso, nonostante un tifoso sia un tifoso, non uno zombie che strizza l'occhio a due o tre squadre contemporaneamente. Agenzia di ora, l'Inter ha offerto, scrive Marca, attenzione, non è che l'Inter ha offerto, Marca scrive, l'Inter ha offerto 30 milioni di euro per Kakà, ma Real Madrid ne chiede almeno 40. E il giocatore afferma di non voler lasciare la squadra spagnola, che peraltro oggi ha ingaggiato ufficialmente Neymar per 40 milioni, guarda caso. Francesco, Taranto, buongiorno. Buon pomeriggio, sono uno sconcertato interista. Volevo condividere con voi... Sconcertato, quindi prima eravamo rimasti con Michele Serra, sconsolato. No, lui proponeva sconcertato, sconcertato, quindi lo faccio mio. Situazione però buffa, diceva anche Michele Serra. Assolutamente. Volevo condividere due considerazioni al volo sull'aspetto, uno gestionale e l'altro di mercato dell'Inter. Sì. Sul primo aspetto, a mio avviso, una considerazione. Forse nel periodo morattiano l'unica alchimia che è stata trovata col plenipotenziario, che è Marco Branca, in realtà è stata quella con Mourinho. Perché subito dopo, dalle dimissioni strane, dall'allontanamento strano di Orjali a quest'ultimo un po' di Leonardo, probabilmente una interpretazione può essere che sia entrato in linea di collisione con Branca. In primavera si era espresso un po' troppo forse sul mercato. E a mio avviso è Marco Branca e non tanto Paolillo, come dimostrano le ultime interviste ieri sera e di stamattina, chi detta un po' legge l'Inter. La seconda è sul mercato, riprendendo una sua considerazione, probabilmente l'Inter si è un po' ingolosita dall'affare dello scambio Eto'o Ibrahimovic, sì. Ma ricordo che nell'anno del triplete, ad aprile o maggio prima, addirittura già aveva ufficializzato quasi Milito e Thiago Motta, quindi voglio dire, la programmazione alla fine è paga. Grazie. A lei, Francesco da Taranto, risponde Marco Beninazzo. Beh, ora io non so esattamente che comandi all'Inter, anche perché le interviste possono... Quando c'era Mourinho comandava Mourinho e non quello, ci piove. E forse credo, per questo le cose funzionavano. Che in questa società liquida, in questa entità liquida, che l'Inter, l'unica cosa di stratificato sia la nostalgia e il rimpianto di Mourinho in questi anni. Mi sembra la cosa più solida. Sì, ora, l'Inter qualche settimana fa, qualche mese fa, ricordiamo, insomma più di un mese fa, il tempo passa velocemente, a gennaio ha fatto una campagna acquisti importante, sì, non dimentichiamolo, e credo che abbia speso tutte le munizioni in più che aveva in quell'occasione per vari motivi, che c'erano infortuni, perché bisognava in qualche modo rimediare alla situazione che si era creata e far fronte alla necessità della rincorsa. Non credo che abbia la possibilità l'Inter, se vuole essere attenta ai parametri del fair play finanziario, di fare colpi ad effetto come faceva in passato, a meno che non ceda campioni e quindi non abbia entrate sufficienti per fare determinati colpi. Se il colpo è Kakà, insomma, mi sembra che siamo un po' lontani da quel concetto di programmazione che si evocava. Poi posso dire una cosa, io sarò forse un po' retro, però io comincio veramente a essere stanco di questi giocatori che non rispettano i contratti, di queste bandiere che non ci sono più. Io penso che uno dei motivi per cui il giocattolo calcio sta avendo, si sta rompendo e sta creando così tanta disaffezione in molti ex tifosi, e il fatto che appunto manca un minimo di credibilità sportiva e di fede. Qualche giorno fa De Laurentiis, parlando per quanto riguarda il Napoli di Inler, ha detto una frase molto bella, tipica del personaggio, ma insomma che ho fatto mia, cioè che il Napoli è una fede, e questo vale per tutte le altre squadre. Se cominciamo a fare passare il principio per cui tutti sono professionisti, non vale più nulla, il calcio si rompe. Non stiamo parlando di imprese o di aziende normali, anche se i criteri aziendalistici e di impresa servono, e tante volte ne abbiamo parlato qui. Mi fate sentire Thiago Silva, per favore, le dichiarazioni di Thiago Silva rilasciate ad una TV brasiliana. mas já teve contato com o pessoal do Barça já. Já está uma coisa assim bem, bem legal de se conversar. Agora eles têm que ir no Milan, porque eu renovei tem três meses, dois meses que eu renovei o contrato até final de 2016. Então, particularmente, eles têm que falar diretamente com o clube. Beh, avrete capito, no? dal brasiliano, ma comunque queste dichiarazioni le avrete lette oggi. Flirt in piena regola, il Barcellona mi ha cercato e... tra l'altro dichiarato così. Ora, io non credo che parlino col Milan, i contatti sono ben avviati. Non credo che nell'era moderna i calciatori dicano qualcosa fuori posto. Sì. Se l'ha detto vuol dire che qualcuno del suo entourage gli ha suggerito di dirlo. Sì. Ora mi chiedo che senso ha firmare un contratto fino al 2016, dichiarare voglio che la mia numero 33 sia accanto a quella alla 3 di Maldini e alla 6 di Baresi. E fare un discorso del genere. Ora una persona, come dire, seria che ha sposato un progetto fino in fondo ringrazia i signori del Barça con cui è in contatto per la stima e fa presente insomma di essere sposato come dovrebbe sì. fare chiunque. Se poi passa il principio che il tradimento è lecito perché siamo professionisti, insomma vabbè, io ti ripeto che c'è qualcun radio che mi ha fatto un'offerta. Professionisti di cosa? Di cosa, insomma, da dire, perché ci sono anche fior di professioniste, appunto. Ma i tifosi hanno bisogno di sentimenti, di fede, di passione, altrimenti veramente, cioè, l'aggettivo sconcertante o sconcertato che avete usato sì. prima mi fa venire in mente l'aggettivo che ha usato il procuratore Di Martino nella conferenza stampa di annuncio dell'inchiesta Scommessopoli sì. e ha usato esattamente questo aggettivo: sono sconcertato per quello che ho sentito e per quello che è il mondo del calcio. Ecco, se un giorno arrivassimo tutti a dire siamo sconcertati, i signori Thiago Silva o Leonardo avrebbero, come dire, altri Marco, tipi di assegni. Ci nutriamo di queste fantasie un po' perverse, caro mio. Kakà va al Paris Saint-Germain, l'addio di Leonardo è più un bene che un male, sentenzia Roberto da Arezzo. Bielsa ordina la carta stampata della TV, vuole essere sempre in regime di rivoluzione, l'uomo peggiore per questa Inter, Ale da Pieve. Tantissimi i messaggi, manco a dirlo. Dunque, eravamo rimasti a Mattia da Mantova. Pronto? Pronto? Pronto, sono in linea, bene. Sì. Allora, niente, io sono interista da sempre e volevo proporre la mia personale visione, più positiva che negativa, circa quanto sta accadendo. Innanzitutto ho sentito l'utilizzo di aggettivi tifosi sconsolati, situazione buffa, sì. Tutto accettabile. Mi sembra sempre il problema dell'Inter in particolare, ma del calcio italiano in generale, di tutto si vuol fare un po' uno psicodramma, magari invece bisognerebbe ragionare un po' più a palle ferme e cercare di perché girano un attimo perché girano, Mattia? Le girano in questo momento? Sì, no, ma sicuramente, però secondo me questo nervosismo che abbiamo noi italiani nei confronti del nostro sport nazionale non ci fa bene. Non do la colpa alla stampa, è un po' una situazione generale, c'è nelle società, c'è nei tifosi, probabilmente c'è anche nella stampa. Sì, ma comunque, per quanto quello che sì, dica. Vorrei nettizzare la situazione dalle speculazioni, a cercare di farlo e provare a elencare diciamo alcune caratteristiche che secondo me la gestione dell'Inter ha avuto negli ultimi anni. Secondo me l'Inter prima dell'anno scorso veniva da due gestioni dal punto di vista degli allenatori abbastanza tranquille di lungo periodo e che nella sostanza sì, avevano... Diciamo che Mattia, diciamo per farla breve, se no non arriviamo alla fine del programma, che con Mancini e con Mourinho naturalmente l'Inter aveva avuto delle gestioni piuttosto stabili, nonché vincenti, a prescindere da quanto dice Capello. Lungi da noi l'idea di farne uno psicodramma, secondo me è più una commedia anche molto divertente, certamente è qualcosa che nessuno si aspettava, nemmeno lei con le palle che girano, mi pare di capire, così come mi pare di capire anche ad altri tifosi dell'Inter, no? Che cominciano, secondo me questo da evitare è l'adagio, ma allora Gattuso, no, Gattuso ha fatto detto e cantato delle scempiaggini, non vorrei tornare sull'argomento, però certamente i tifosi dell'Inter sono anche in maniera comprensibile feriti da un uomo che era diventato un po' la loro controbandiera, no? Sì, per questa necessità di identificazione che il calcio si, sì, si porta dietro. Mi spiegate perché l'Inter per il fair play non può spendere una lira e il Real ne caccia 40 per Neymar? È sempre per quel discorso faticoso da far capire che non, con il fair play si può spendere, devi spendere per quanto incassi. Se il Real Madrid ne incassa 400 e l'Inter arriva a 200, è chiaro che ha il doppio della possibilità di spendere. Quindi è una questione di gestione, non di mancate spese, di mancate possibilità di investimento, ma di diversa gestione dell'azienda calcio. Impossibilità, diciamola così, di aumentare i ricavi per quello che è l'attuale sistema, perché non è lo stato di proprietà, i diritti ormai sono stabiliti, sponsor e merchandising non hanno grandi possibilità di crescita in questo momento in Italia e quindi non puoi permetterti grandi acquisti, soprattutto se parti da meno 70, che è l'ultimo bilancio dell'Inter, meno 70 milioni si è chiuso in questo modo. Quindi diciamo che puoi spendere nel momento in cui hai degli incassi, quindi puoi cedere Maicon e Snyder, di questo si sta parlando mi pare in questi giorni, e magari piazzare un colpo con un giovane proiettato al futuro. Non vincerai subito, pazienza, insomma, vincerai tra qualche anno, ma forse ecco, il concetto di programmazione è quello fondamentale. È quello centrale. Auguro a Bielsa e all'Inter tutta la fortuna e i successi di Hector Cooper. Saluti Davide, un milanista. Ma va? Caro gente, lei non è interista. Come ha fatto a indovinare questo ascoltatore? Giorgio, provincia di Treviso. Bruno da Pavia. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo fare una considerazione a proposito del calcio scommesse. Sì. Credo che non si può giustificare un giocatore che ovviamente vende una partita e fa perdere la propria squadra, però volevo sentire una vostra opinione. È ammissibile anche che ci siano società in cui è considerato quasi normale pagare i giocatori con 4, 5, 6 mesi di ritardo, quando c'è uno a febbraio, marzo, stipendi, magari un giocatore ha preso 2 mensilità no, di stipendio. Giorgio, non è ammissibile, però non si può dire e allora visto che non prendo i soldi vado a rubare, perché questo non è ammissibile. Così come, a mio parere, non è ammissibile lasciare in vita, in campionati professionistici, quelle società che sappiamo benissimo non pagheranno gli stipendi del mese prossimo o tra 2 mesi o, se va bene, arrivano a 3 mesi. Questo è inammissibile, però dire non prendono i soldi poveretti e allora vale tutto, questo mi sembra fantascienza, mi sembra pazzesco. Anche, assolutamente, c'è anche un caso recente di una squadra di Serie A, la Roma, che non aveva la possibilità di pagare gli stipendi, che ha dovuto cedere i diritti dell'anno prossimo, parte di questi, insomma, con un'operazione finanziaria. Ora questi problemi per fortuna a Roma sono superati ed è bene che a Roma si ricominci da Luis Enrique, da giovani della primavera. Questo per esempio è un bel messaggio se parte questo, e non vengano, come dire, strombazzati nomi che poi lasciano il tempo che trovano. Bruno, buongiorno. Buongiorno, sono qui. Senta, no, secondo me forse l'aggettivo più adatto per i tifosi è quello di scoglionati, perché mi sembrerebbe di dire. Comunque, tornando a Leonardo, giusto per usare un francese, per toccarla piano, sì, per usare un francesismo che piacerà a Leonardo, un eufemismo per essere velati, ecco. Sì, sì, proprio quel capire non capire, dire non dire. Esatto. Ecco, detto questo, pensavo questa questione di Leonardo, forse l'Inter si è lasciata perdere non tanto un allenatore che deve ancora dimostrare il proprio valore, quanto invece un uomo che aveva dimostrato buone capacità come dirigente e come capacità di individuare dei talenti, perché Leonardo ha portato al Milan, io sono milanista, della gente di valore, comunque ha segnalato della gente di grande valore, mi sembra di capire, e quindi forse l'Inter dimostra un'altra volta di essere una squadra che non ha un progetto, se non al di là di dire vabbè, vieni qui, cerca di vincere, se no vai a casa dopo poco, ecco. Sì, Milan chiesta la proprietà di El Shaarawy, per chiudere l'affare servono 6-7 milioni di euro, ve la butto lì così en passant, visto che viene battuta sugli schermi di Sky dal nostro amico Gianluca Di Marzio. Sì, è abbastanza sorprendente tutto questo, poi bisogna capire quali sono stati i rapporti tra Leonardo, i giocatori, Moratti, Branca, eccetera, perché ti confesso che la mia idea sull'Inter era: sta ancora un anno Leonardo che piace a Mourinho, poi torna il comandante. Evidentemente non era così. Io ho una sola domanda, un interrogativo che mi stavo facendo: ma in queste settimane all'Inter il mercato chi lo stava facendo? Evidentemente, beh, che hanno preso nessuno, erano lì ad aspettare di capire cosa faceva Leonardo. Marco, abbiamo 20 secondi, assemblea di Lega di oggi, informali cosa si dicono? Diritti TV, c'è stato un parere della presidenza del Consiglio che ha detto che i tifosi sono i tifosi DOC e non anche i simpatizzanti o gli zombie evocati da altri colleghi sulle pagine di altri giornali. Stanno discutendo, ci sarà poi lunedì l'assemblea formale, speriamo che trovino un accordo su questi benedetti 200 milioni e soprattutto sui criteri per la programmazione 2012-2015, perché senza quei soldi, e Sky ha già detto che magari tirerà fuori qualcosa in meno, il calcio italiano, insomma, che si mettono d'accordo su chi diavolo è il tifoso. Ma chi è il tifoso? Il tifoso chi è? Tra un po' non ce ne saranno più e quindi avranno risolto il problema alla radice. Grazie a Marco Belinazzo, a Luca Rinaldi in redazione, a Mauro De Angeli in regia. Ci sentiamo domani alle 2.